troppo carina e non era per me. Era troppo felice e non era per me. Qual è il vento d'estate? È venuta da me, si è fuggita da vita, le amore non so, era troppo felice, tu sai bene chi sei, era una ragazza della pelle scura, la mia frizione, il modo oliosi, il modo sudati, carina. Oh, Olavo, oh, felice sudati ragazza, la pelle oliosa e scura, la cena sagnata, la mia, la dita, Olavo, troppo carina, polmone dolore, corazione lodare, era troppo carina, con sapore di mare e il gusto di sale vicino a me. Incontrato carina, desiderato, qualcuno è mia storia della ragazza, cin cin vicino a me, cin cin vicino a me, libido carina, è troppo bucacciola e non era per me. Era troppo felice e non era così Carina, carina, carina, la la la la, la la la la, la. Estancio pastosa, stelaccio della bocca, la no fortuna solo le dolore, affogare di spacere. Pelo qualche cosa e scatole di rimedio, lì la testa cabale più, la mancanza di alimentazione, carina, oh, carina, oh, la, la, carina, oh, carina, oh, troppo felice, dimenticare per me. Hey!